Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Gianluca Stival, dell'immensità. Quel suo fascino incantevole, quella grazia quasi seducente e quell'armonia a tratti confortante, era lei con quella voce dall'immensa intensità e della sconfinata vastità. Era nel buio che affondavo la mia anima, nel leggiadro suono delle sue parole, ed era proprio lì dove le ritagliavo un pezzo del mio infinito. Per quanto si cerchi di evadere, di non voler resistere, certe persone le vesti nel sangue. Ogni diritto è riservato all'autore.